Wolf Trips, I viaggi del lupo. E ci siamo anche questa sera 24.11, visto che la settimana scorsa era il 17.11, con la nuova puntata di... Sì, che veramente... Ce lo siamo tolti dalle scatole. Con la nuova puntata di Wolf Trips. Siamo un po' sugli influenzati andanti, infatti abbiamo chiesto rinforzi, vero? Sì, infatti, questa puntata sarà rinforzata dal nostro Tony, grandissimo. Buonasera, ciao Tony, ciao, ciao Tony. Oggi a prenderti i germi. No, vabbè, ma io sono... li prendo già da solo, dunque. Vabbè, sono loro che arrivano da te. E scappano anche. Infatti. Andiamo ad ascoltare subito un po' di musica, così intanto ci scaldiamo un attimo, che fa ancora un po' freddino qua dentro. Ma no, dai. Sì. Ma... ok, non parlo ma più, che scusate. Tu, ragazzi. Va. No, io ho sempre freddo. Andiamo ad ascoltare subito i Queens of Stone Age. Da dove arrivano? California. Ah, ti ho fregato. Secondo il loro pezzo nuovo che è The Way You Used To Do. Conosci? Il cantante chi è? Ma mi chiedi troppo. C'è Wikipedia, vai a cercarlo su Wikipedia. Andiamo a ascoltarlo, intanto cerco chi è il cantante, dai, te lo dico subito dopo il pezzo, dai. To do. piaciuto questo pezzo, Tony? Diciamo che è molto da radio solitario. Sì, sì, sì, però era, non lo so, sì, è un qualcosa di elettronico. Un qualcosa di elettronico, sì. Ce l'ha. Non ho mai capito ancora bene come non sono. Non lo sono neanche loro. Non lo sono nemmeno loro, non lo sono nemmeno. Ma loro. La domanda sorge spontanea. Ma chi è il cantante? Questo tizio qua, dai. Il cantante è Joss Homme. Ah, sì, Josh non è parente di non è parente di sì, cantante, ho letto di gruppo Stoner. Sì, sì, è loro Cuse, sì, dice, no, Cuse. Loro sono, diciamo, il genere Stoner, rock Stoner, sì, Stoner l'hanno diciamo coniato loro alla fine come, ah, proprio loro? Sì, sì, sì, sì, sì. Sempre queste informazioni, vedi, l'ho sempre sì, sì. Bert Cardine, infatti, sì, infatti. Bert Cardine è fulcro in cui è stato sviluppato Stoner Rock. Però... è proprio questo genere qua, molto anche cupo, no? Perché non è che è proprio bello cristallino. Questa era già, diciamo, una parentesi allegra. infatti. Vero, vero. Comunque, giusto perché ti ho detto che ho rinnovato un po' la musica anche di Wolf Trips. Non è che mettiamo solo rock o solo elettronica, metto un po' di musica anche più, tra virgolette, mainstream, ecco, mettiamola così. Più facile. Infatti il brano successivo, prova a buttare un occhio qual è e puoi anche chiuderti sì, in un... Sì, no, ma avevo visto gli anticipi su Facebook e ho detto, boh, chissà se lo sanno i piani alti. Ma no, lui l'ho preso... No, dai, il brano secondo me ci sta, nel senso... L'ho preso come DJ. Apprezzo come DJ, il brano non è nulla di... Non lo conosco però, sinceramente. No, secondo me lo conosce, nel senso, l'hai già sentito a orecchio da qualche parte. Nelle altre radio. Bravo, bravo. No, il discorso è che praticamente, magari non è proprio un brano prettamente da Radio Lupo, però non è neanche un brano che si spinge troppo, non è una roba dance o house, capito? È quello che si fa adesso. È quel mistone, bravo. È quel mistone che in realtà a me piace, quindi ci ho pensato un attimino. Possiamo metterlo. Ma Ibiza. Andiamo tutti ad Ibiza. Ci spostiamo un pochettino su... Ma io diciamo soprattutto chi è questo... Oh. Non conosci chi è Robin Schulz? No, Google. Vabbè, Google sarà quello che canta, boh, che ne so. Pissaccio. Niente, andiamo ad ascoltare quindi Robin Schulz con Google. Qua si mi dà birra. Chi è che dice il titolo? Qua mi dà la birra, Vabbè. Il brano è I Believe I'm Fine. Ok. Sicuramente vedrai che l'avrai già sentito. Ascoltiamo. Don't need it as much as you used to, do you? You didn't think that I noticed it, did you? But I did, yeah. Your loving has a way of pulling me apart at the seams. But I don't believe that you're leaving. Cause remember when it was me that held you high when you're lonely, that got you cold when you're down. Remember when it was only me you'd want on the line. The one I trusted and only, the one I kept in the light. And if I keep it repeating, maybe I believe I'm fine. Maybe I believe I'm alright. Maybe I believe I'm fine. Maybe I believe I'm alright. Maybe I believe I'm fine. Maybe I believe I'm alright. Maybe I believe I'm fine. Maybe I believe I'm alright. Right, yeah. The question I ask you, that's on you. And I never question the answer you give me, but I should, yeah. Your loving has a way of making me forget all my senses. But I don't believe that you're leaving. Cause remember when it was me that held you high when you're lonely, that got you cold when you're down. Remember when it was only me you'd want on the line. The one I trusted and only, the one I kept in the light. And if I keep it repeating, maybe I believe I'm fine. Maybe I believe I'm alright. Maybe I believe I'm fine. Maybe I believe I'm alright. Maybe I believe I'm fine. Maybe I believe I'm alright. Maybe I believe I'm fine. Maybe I believe I'm alright. Right, right. remember when it was me that held you high when you're lonely, that got you cold when you're down. Remember when it was only me you'd want on the line. Te l'ho detto che la conoscevi, dai, non è possibile che non l'avevi mai sentita ancora. Sì, in altre versioni, sì, mashup, sì, sì. Come si usano molto. Mamma mia, mashup. Settimana scorsa abbiamo avuto un ragazzo che faceva, cos'è che aveva fatto? Aspetta, fa i bisognini, fa... No, scusa. No, i bootleg. Ah, bootleg. E poi, bootleg, veramente. Sì, e poi alla fine gli abbiamo chiesto, ma che sono sti bootleg? Cioè, continuava a dire bootleg. Mettere due pezzi insieme con... No, no, quello è il mashup, quello che dici tu. No, il bootleg è il remix. Vabbè, cosa fa, cioè... Alla fine è un remix. Non ho capito come fanno a cambiare certe cose. Non so, no, qua. Ma secondo me è semplicemente più bello dire bootleg che dire remix. Sì, beh, è vero. Vabbè, amen. Sì, sì, sì, vabbè. E comunque stavano dicendo, quindi non l'abbiamo trovato il tizio che cantava prima. Come si chiamava? Non me lo ricordo nemmeno. Ugel. È andato a bere una birra. Allora, appena apro il computer e scrivo Ugel, mi vengono fuori vini, grappe, birre, io non lo so. Il periodo è giusto per bere. Però comunque ci sono anche gli artisti. Vabbè, quindi sarà, dai, penso che non sarà una birra, penso. E non è neanche brutto come ragazzo. A proposito di un cincine, di un brindisi, sì, facciamo gli auguri anche alla Cristina. Giusto, è vero, è vero. Come sputtanarmi in due secondi in una... Non abbiamo mica detto gli anni. Che diventa vecchia. Grazie. Beh, ancora sulla soglia della gioventù, dai. No, comunque, diciamo che questi anni qua li fai solo... L'hai fatti solo ieri, nel senso... Vabbè, una volta l'anno si fanno, sai, dai. Come si dice, questi anni qua li fai una volta nella vita, per forza, sì. Tutti li fai una volta, non... Cioè, e meno male, infatti, finché mi è permesso. Vabbè, sei ancora abbastanza giovane, dai, te li diamo ancora un po' di... Vabbè, grazie. Visto che parlavamo di... Dopo ti tolgo di birra, di cose, no? Il brano dopo è Lemon. Quindi ci sono tante... C'ho le birre al limone. La Radler, praticamente. Sì. Ma pure il limoncino, è molto buono. Oppure il limoncino. Crema al limoncino. E giusto per continuare sul filone trash. Infatti. Il prossimo pezzo è dei Nerd. Quelli conosci, dai. Sì, hanno fatto dei bei pezzi. Fale William e Co. Che hanno fatto pezzi un bel po' di tempo fa. Con e Rihanna. Rihanna. Sì. Caspita. Ma, cioè, Rihanna e Fale William sono sempre in mezzo a tutte le cose. È vero, è vero, è vero. E il brano si chiama Lemon. Andiamo ad ascoltarcelo. It'll set you free, but first it'll piss you off. Hey, bad bitches wanna be my bae. Hey, hunt me down like the CIA. Hey, side of my car trying to see my face. Hey, want me to beat it like the CIA case. Oh, hey, if it's heated, I'ma be my face. Hey, and best believe it's gonna be outrageous. Hey, hey, niggas can't believe my race. Hey, niggas hit you with the Eli face. Oh, bouncing around, bouncing around, bouncing, bouncing around, bouncing around, bouncing, scrunching they out with your name. Bouncing around, bouncing around, bouncing. Hey, you keep asking me where I'm from. Hey, about the borders and did I run? Hey, keep asking how I feel about guns. There's a light and dark army, which side you choose on? Hey, if not now, then when? Hey, and if not me, then who? Hey, don't drink the Kool-Aid, my friends. Hey, I try to tell y'all about this dude. Bouncing around, bouncing around, bouncing, bouncing around, bouncing around, bouncing. Hate supplements I found right in their couch. Shout out to them people. Mad ethnic right now. I get it how I live it. I live it how I get it. Come to motherfucking digits. I pull it with a lemon. Not cause she ain't living. It's just your eyes get acidic. And this ain't a scrimmage. Motherfucker, we ain't finished. I told you we won't stop. A nigga by the business. Like yours, but you rent it. Wave hello to the top. Nigga, the bay wrong guy. Tell the paparazzi, get the lens right. Got the window down top, blown lock. Got the hazard on the Doom 5. You could catch me, Ree, in the new LaFerrari. And the truck behind me got arms. Yeah, longer than LeBron. Just waiting for my thumb like the Fonz. Woo, this beat tastes like lunch, but it's running from veneers and it's running from the fronts. But every day, hey, well, lemonade. Once a nigga graduate, would I be okay? So I prayed and I prayed. paid. It's Rihanna, nigga. My constellation in space. Warp speed. Double spark couldn't chase. Nigga, bath salt. Bite speakers in the face. Bath salt. Bite speakers in the face. Bath salt. Bite speakers in the face. Bath salt. Bite speakers in the face. Bath salt. Bite speakers in the face. Bath salt. Bite speakers in the face. Bath salt. Bite speakers in the face. Bath salt. Bite speakers in the face. Bath salt. Bite speakers in the face. I get it, how I live it. I live it how I get it. Count the motherfucking digits. I pull up with a lemon. Noxious, she ain't living. It's just your eyes get acidic. And this ain't a scrimmage. Motherfucker, we ain't finished. I told you we won't stop. A nigga by the business. Like guns, which is spinning. Wave hello to the top. Nigga, the vape run by. Tell the paparazzi get the lens right. Got the window down top, won't lie. Got the hazard on, only going five. E niente, finisce così il brano. Io c'avevo ancora 30 secondi di brano. Tagliamo via. Eh beh, no, per forza. O c'era una pausa, non lo so. Dobbiamo correre a fare il Black Friday. Infatti. È vero, c'era una pausa. Balordo sto brano, è da ricordare. Se dobbiamo suonarlo, dobbiamo ricordarcela sta cosa. Se uno deve andare in bagno. Infatti. Non va bene, cioè proprio la pausa silenzio netto. Sopra in fondo a destra. Vabbè. Sì, oggi il 24 novembre c'è questo diamine di Black Friday. È iniziato il Black Friday. È anche finito, speriamo. Ma non lo so. Alcuni vanno avanti fino al 26, 24, 25, 26. Tra l'altro oggi in rete c'era di tutto, le cavolate maggiori su Black Friday. Sì, veramente. Io ho cercato qualcosa in cuffie, queste cose qua, ma no. Ho i miei dubbi che siano cose di valore. Mi sembrano un po' troppo scontate. Non lo so. Sì, beh, ho roba troppo vecchia. Bravo. Ma alla fine non è che ti possono fare chissà che cosa. Ti vendono quello che non vendono. E comunque è una moda. È un po' come l'Halloween. Sì, è degli Stati Uniti. È come Halloween. È praticamente il giorno successivo al giorno del ringraziamento. Che questo negli Stati Uniti, questo giorno, il Black Friday, è un inizio, diciamo. Questo Black Friday dà inizio agli acquisti natalizi, allo shopping, regali. Quindi, negli Stati Uniti, in America. Ma io ho visto che già fanno le offerte del Black Friday per il Capodanno. Cioè, si porta la cioè, tu prenoti adesso il cenone il giorno del Black Friday. E ti fanno lo sconto per il Capodanno. Oh, informiamoci. Poi ti do i link. Vabbè, io non vedo l'ora che sia finita questa cosa del Black Friday. Anche Capodanno. Ci danno il cibo scadente, ci danno la stanza sporca, quella che non danno mai a nessuno. La stalla ci la danno. La topaia. C'è una stalla. Veramente, caspita. Vabbè. Pezzo DJ o... No. Sì, no, pezzo, però aspetta, no, volevo dire l'ultima cosa su Black Friday, che c'era che l'immagine... Che non l'ha detta nessuno. Oggi proprio... No, questa non l'ha detta nessuno, questa, perché erano le cose stupide che ho trovato su internet, no? C'era l'immagine praticamente di un tizio che si avvicina al Black Friday, bello contento, e da dietro c'è la povertà invece che lo ritira indietro. Quindi, credo che sia stato un po' dopo l'idea di tutti, perché... Cioè, spendi. È un modo per non sembrare poveri. Bravo. Comunque diciamo che tutti sono andati a cercare, oppure hanno avuto anche solo l'idea di dire, vabbè, vediamo se questo oggetto, questa cosa... È in sconto. Ecco, e lì capisci la vecchiaia delle persone. Perché sì. Noi cosa abbiamo cercato oggi? Nulla. No, abbiamo cercato una cosa. Un nuovo marito e una nuova moglie. La scopa elettrica. Sì, Invece tu però hai cercato le cuffie, vabbè. Vabbè, ma io sono un po' così. Cioè, ovviamente ho le cuffie, non del Black Friday, ma penso... Noi invece... Usate... Dalla famiglia Adams, credo. No, guarda, capisci quando diventi vecchio perché... Non senti più. No, a parte quello, infatti io sono sorda da un orecchio. Però vabbè, questo dai, diciamo che l'influenza copriamo con... quando vai in giro e compri tutti i straccetti per la casa, cose per la casa, e per te nulla. Sì, dici, oggi vado a fare un po' di shopping, che bello, eh? E poi alla fine solo cose di casa. Fantastico. Infatti lo dice anche il brano successivo, A Different Way, no? Un modo diverso. Veramente. E lui è il DJ Serpente, sì, non so se lo conosci. Snack, sì. DJ quello del Nokia 3310. Sì, sì. Caspita. Ma adesso è stato tornato in moda, tornato di moda. Radio Lupo Solitario dal 1979 ti regala emozioni rock. Pubblicizza la tua attività e cresci insieme a noi. Un nostro consulente è a tua disposizione al 349-7731-166 oppure scrivi a commerciale@radiolupo.it. La tua pubblicità su Radio Lupo Solitario. Voglio raccontarvi cosa si nasconde dietro un aiuto. Ci sono litri e litri di caffè per tenere i ricercatori svegli notti intere davanti ad un microscopio. Ci sono cieli stellati per esaudire i sogni di pazienti e familiari. E poi ci sei tu per far sì che tutto questo non finisca. Compra una stella di Natale dell'AIL, l'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, l'8, 9 e 10 dicembre in 4.800 piazze italiane. Rock and roll, mitico! Lo sai mantenere un segreto? Che cosa, caro? Io odio la disco. Radio Lupo Solitario. Il rock deve trasmettere pace e amore. Radio Lupo Solitario. E ricordate, regola numero uno, qui non esiste nessuna regola! Wolf Trips, i viaggi del lupo. Preparatevi per un'ora di musica underground, solo su Radio Lupo Solitario. Jack when I'm kissing him. So I told him that I never really liked his friends. Now he's gone and he's calling me a bitch again. There's a guy that lives in a garden state, and he told me that we make it till we graduate. So I told him that the music will be worth the wait, but he wants me in the kitchen when the dinner plate. I believe that we're meant to be. But jealousy, get the best of me. Look, I don't mean to frustrate, but I always make the same mistakes. Yeah, always make the same mistakes, cause I'm bad at love. Ooh, ooh. But you can't blame me for trying. You know I'd be lying, saying you're the one. Ooh, ooh. That could finally fix me. Looking at my history, I'm bad. Got a girl with California eyes, and I thought that she could really be the one this time. But I never got the chance to make a mind, because she fell in love with little thin white lines. London girl with her attitude, we never told no one, but we look so cute. Both got way better things to do, but I always think about her when I'm driving through. I believe that I'm in too deep. Jealousy, get the best in me. Look, I don't mean to frustrate, but I always make the same mistakes, yeah. Always make the same mistakes, cause I'm bad at love. Ooh, ooh. But you can't blame me for trying. You know I'd be lying, saying you're the one. Ooh, ooh. That could finally fix me. Looking at my history, I'm bad. You're afraid I'm gonna walk away. It's time to feel and face. You know I'm bad at love, but you can't blame me for trying. You know I'd be lying, saying you're the one. Ooh, ooh. That could finally fix me. Looking at my history, I'm bad at love. Questa era Halsey con Bad at Love. Che pezzettino carino che ho messo, eh? Sì, è molto carino. Ah, dai. Sì, ah, sì, okay. No, non molto so chi sia, sinceramente. È una cantante alternativa. Sì, non è Hansel e Gretel. Pensavo era una tipa che facesse più rock, sinceramente. No, invece è più elettronico. Più elettronica. Tanto intanto, qua io ho una pagina aperta. Su che cosa? Devo cambiare il ferro da stiro, quindi. Ma senti un po', tanto ormai mezz'ora l'abbiamo già bruciata così veloce. Ma non dovevamo parlare di qualcosa del giorno? Non l'abbiamo già detto? No, forse stiamo parlando del Black Friday. Ah, è vero, hai Alzheimer? Sì, sono Alzheimer. Cazzo, ti mando la neuro, eh? Porca miseria, hai ragione. Subito. E vabbè, niente. Quindi non avete comprato niente, giusto? Io sto guardando, ma quello che voglio prendere io non è in Black troppo Friday. Caro. È in White Friday. Non ci sono abbastanza soldi. Beh, ma forse arriva Natale, eh? Magari un regalino. Eh sì, ma qua hai visto quanto costa? Non lo so, ma bisogna 260 passa meglio. Euro. Cosa devi fare? Vabbè, apriamo una colletta al numero 338-222-8983. Scriveteci pure quanto volete donare. Noi forniamo l'IBAN, quindi partiamo da un ferro da stiro, poi aggiungiamo un boiler e magari ce la facciamo in pure casa. La scopa elettrica. Quella, puoi usare anche quella. Sono le due cose che mi servono. Che fa a casa tua, non c'è nient'altro. Solo noi viviamo praticamente. Cuciniamo col ferro da stiro, no? E poi con la scopa elettrica, niente, fai tutto il resto. Su un treno, visto che così funziona così. In cuccetta. Andiamo a ascoltare il prossimo brano elettrico, che è di una cantante che ultimamente mi piace parecchio. Ho capito perché ti piace. No, è brava anche è a cantare. È famosa anche per la pubblicità, cos'è, della Pepe Jeans. Sì, ha fatto la pubblicità. No, non lo sapevo. Ha fatto una cover di una famosa canzone che adesso non ricordo. Vabbè, lei è Dua Lipa. Dua Lipa, famosa con Sean Paul. Sean Paul. Infatti, una fotomodella ci vuole lo Sean Paul. La mia faccia dice tutto. E il brano si chiama New Rules. News nuove? Nuove regole. Siamo sempre un po' sul genere, non so come definirlo. Tutto reggaeton, uguale. Reggaeton, non lo so. Making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Don't pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. Pushing forwards, but he keeps pulling me backwards. No way to turn. No. Now I'm standing back from it. I finally see the pattern. I never loved. He doesn't love me, so I tell myself, I do. One, don't pick up the phone. You know he's only calling because he's drunk and alone. Non era male il brano, dai. No, è piaciuto. Molto bello. Carino. Il genere non so ancora qual è, devo dire la verità. Il genere è un po' misto. Boh, non lo so. Sì, perché so. Lei fa un po' di appunto dal reg. Fa un po' di crossover, possiamo dire, tra certo. I generi, ecco, mettiamolo sì. Così. Allora, devo salutare intanto Sara che ci sta ascoltando e Santiago. Fabio. E Fabio che è a mangiare. Che è il nostro, è l'altro, è il disturbatore della radio, no? Noi come al solito abbiamo una fame qua, lui ci manda le foto, sono a cena. E ultimamente praticamente c'ha sempre cene aziendali, non so quante aziende lavori perché è già la seconda che si fa. Deve fare anche un'altra settimana prossima, quindi vabbè. Vabbè, ma è sposato? Sì. Ma lo sa la moglie che... Sì, lo sa. Comunque il brano che dicevi tu prima di Dua Lipa sì. Era Bang Bang, non possiamo dire di chi era la pubblicità. L'ho già detto io. No, beh, dai. Vabbè, quella marca che se non sa di sale ma sa di... Bravo. E Patrizia non è sale però. E Patrizia ma non sale. Vabbè, intanto e quindi la non è scena, cara Deborah sta morendo. Ma vedi che fortuna ha questa ragazza. Comunque continuando a parlare di cose da mangiare, il prossimo DJ invece è Marshmello. Quelli che volevo mettere io ieri nel barattolino adesso bellissimo. Per ascoltare sta canzone. Perché c'è il fornello? Ah, è perché il marshmallow. La Deborah, tra l'altro, non so se hai mai visto le sue foto, ma lui praticamente. È uguale. No, aspetta. Allora, diciamo, normalmente è una persona normale, no? Un sì, ragazzo. Faccia, anche sì. Un po' sfigatino, è però un è una nerd, persona. Sì, un nerd. Bravo. Invece quando va a suonare si concia in questo modo qua, cioè si mette una specie di marshmallow in testa. Mi sa che cuoce dentro però. Sì, poi non ho mai capito se questi DJ che usano le maschere hanno dei ventilatori interni. Qualcosa... No, non penso. Non lo so. Devono morire di caldo, secondo me. Ma fai conto come Dead Mouse, che è tutto elettronico, ci lasci dentro la testa. Vabbè. Anche lui, più o meno siamo sullo stesso genere. Sì. No, il genere questo qua di marshmallow è trap. Quello te lo posso dire con certezza. Guarda. Sì, che a te piace tanto proprio come genere, no? Proprio una cosa... Adoro! Una cosa... vabbè, andiamo ad ascoltare il brano di Marshmallow, Fit Khalid, che non so chi sia. L'ha trovato in giro. L'ha trovato lì per strada, l'ha tirato su. Senti, vieni a cantare due pezzi. E il brano si chiama Silence. Che hai indovinato come... Poi adesso sicuramente qualcuno andrà a cercare chi è sto Khalid. Questo è un rap. Che già mi sa che è un rap. La ricerca precedente non ha... No, visto cosa troviamo. Trovato cose buone. Yeah, I'd rather be a lover than a fighter. Cause all my life I've been fighting. Never felt a feeling of comfort. All this time I've been hiding. And I never had someone to come on. So used to shit, love only left me alone. But I'm at one with the silence. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been quiet for too long. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. For favors, my whole life I feel like a burden. I think too much and I hate it. I'm so used to being in the wrong. I'm tired of caring. Loving never gave me a home. So I sit here in the silence. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been quiet for too long. I found peace in your violence. Can't show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been silent for too long. Questo era il brano di Marshmallow. Bello tranquillo, sì, pensavo un po' più carico, devo dirti la verità. Me lo ricordavo poi un po' diverso. Negli anni 90 si poteva chiamare down beat questo genere. Sì. C'è qualcuno che qui ha la sala giochi incorporata. Sì, sta facendo ricerche, cose. Sì, guarda qua. Potremmo portarla alla gran casa. No, faccio prima proprio a chiudere il conto in banca perché ho già capito che altro che Black Friday. Guarda. Non sto facendo acquisti, sto facendo ricerche per fare acquisti. Suoi. Per fare acquisti. Beh, sono anche cacchi suoi, La moglie è sempre la regina di casa. Sono anche cavoli suoi, perché purtroppo come sì. Stiro per me, stiro anche per lui. Sì, forse. Qui non più Wolf Trip, ma una roba tipo... Casaling Trips. Vabbè, dai, è così. Io direi andiamo avanti con un po' di musica. Il prossimo brano è Lord con Greenlight. Non so non se si lava mai questa. Non l'hai mai sentita? No, non si lava mai. Non è l'unica. Tra l'altro, perché ecco. Tra l'altro, guardando le foto, sembra un po' Cristina D'Avena, devo dirti la verità, no? Sì, sì, un ma po'... è quel genere di quelle cantanti come l'altra, che non mi ricordo adesso il nome, così allegre, così piene di vita. Guarda. No, dai, sto brano qua è bello carico. Ah. Lei aveva fatto invece, a proposito di pubblicità, tanto ormai abbiamo capito che qua ci siamo lanciati. Non so se ti ricordi una delle prime pubblicità della Samsung, sì, dove c'era un lancio del Samsung, forse 5. C'era un video bellissimo e lei aveva fatto una delle. L'aveva fatto proprio la prima canzone, poi dopo che l'ha lanciata un po' al successo. Non te la ricordi, non mi ricordo come si chiama, però. Solamente io con le canzoni delle pubblicità. No, ma guarda, vedo di recuperarla, vedi che sicuramente te la ricordi. Sì, mi ricordo il primo singolo che è più famoso. E qual è? Poi è quello che dico io. Non te lo ricordi come si chiama? Sì, è un po'. Sì. È lento, molto lento. Sì, sì, sì, sì. È una bella. Eccolo lì, è quello che dico io. È lo stesso che dico io. Vabbè, però. Questo invece è Greenlight. Andiamo a ascoltarcelo con Lord. Lord. We ordered different drinks at the same bars. I know about what you did and I wanna scream the truth. She thinks you love the beach, you're such a damn liar. Well, those great whites, they have big teeth. Oh, they bite you, thought you said that you would always be in love. But you're not in love no more. Did it frighten you how we kissed when we danced on the light of floor? On the light of floor. But I hear sounds in my mind. Brand new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you. Up in a different bedroom, I whisper things, the city sings them back to you. Well, those rumors, they have big teeth. Hope they bite you, thought you said that you would always be in love. But you're not in love no more. Did it frighten you how we kissed when we danced on the light up floor? On the light of floor. But I hear sounds in my mind. Brand new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you. Intanto mi è arrivato un messaggio che mi ha ripreso, perché ho detto che non abbiamo detto il titolo del brano prima, che stiamo parlando di Dua Lipa. Ma io mi ricordo che avevamo detto Dua Lipa New Rules. New Rules. Sì, boh, sì. Nuove vabbè. Regole. Nuove regole, magari è stato detto tradotto, proprio sullo sfumare. Sì. Vabbè. Sara, non sei stata attenta, te lo dico io. Che poi adesso mi hai messo Cicazia, non è neanche venuta qua. Brava, Cicazia, è lì che ci ascolta. Hai quindi capito? Preparati che tra poco veniamo anche a mangiarci la torta. Ti do anche questa informazione così. E che poi tra l'altro ci mi viene in mente una battuta Family Pub. Tanto, almeno che avesse il coraggio di venire qua. Tanto salutiamo il Family Pub. Già che ci siamo, ricordiamo un po' le serate di stasera di Radio Lupo. Stasera c'è il mitico Diegone all'Opera Caffè. Opera Rock Caffè. Opera Rock, già, beh, rock. Però dovresti dirlo proprio nel modo in cui si dice normalmente questo evento. Opera Rock Caffè. E non c'ho la stessa voce di nemmeno io, a me sembravo tipo un cane bastonato che parlava. Allora, stasera dalle 23 DJ set dopo il gruppo, adesso non mi ricordo il nome del gruppo. Il gruppo no, è un gruppo cover, ma non mi ricordo di un che po' cosa. Di tutto o solo tributo? Mi sembra no, un tributo a qualcosa di particolare, ma adesso cerco un attimino, diciamo. Però non, al momento non mi ricordo. Sì, però c'era un gruppo cover. Poi sembra che il venerdì loro fanno spesso gruppi cover. Ok. Poi dalle 11 poi mi astengo da un commento, però vabbè. Sì, beh, ma i ragazzi sì, beh, poi tu in prima persona che suoni. Mi astengo dal commentare il gruppo core. Però diciamo c'è il gruppo core, poi c'è la DJ set di Radio Lupo. Invece al Family Pub di Narzo stasera c'è Giorgio Fioretti e un nuovo new entry di Radio Lupo che è Annalisa. Non so se l'hai conosciuta. L'abbiamo conosciuta, sì. Siamo tanti ma non ci conosciamo. No, infatti. Aspettiamo. Siamo una grande famiglia, sì. Un grande, come dire, grande. Cosa vuoi dire? Cosa vuoi dire? Una grande Family Pub. Gira la ruota e compra una vocale. No. Ah, ok. È solo al Black Friday. No, io sto pensando al Black Friday. Al ferro da stiro. Oggi c'è la malattia Black Friday. Vabbè, andiamo avanti con un po' di musica che siamo quasi agli sgoccioli. Porca miseria, la paura sì, che ma vola. Tanto non ci sono soldi, è inutile, cioè. Non ci sono soldi. Il prossimo brano è Back, che sicuramente conoscerai. Sì, mi ricordo gli anni 90. Beh, e invece questo qua è un brano nuovo. È uno dei uscito quest'anno. Sì, ma aspetta, adesso dimmi che canzone è Allegra. No, perché le ultime due hai invertito le cose, cioè da un gruppo tipo Marshmallow che mi aspetta una canzone ed era viva, era Moscia Moscia. Invece Lord che è un'altra e invece era bella carica. E questa qua è una via di mezzo, dai. Ci sbagliamo. E il brano è Up All Night. Anche il video è molto bello. Se sulla ti notte che tutta la notte sulla che notte, cosa? Sulla... non si sa. Guarda il video. Just wanna stay up all night with you. Just wanna stay up all night with you. Turn up your intanto il Black Friday ormai si sta prendendo possesso dei nostri corpi e delle nostre menti. Adesso che poi si sta chiudendo la mezzanotte. No, ma poi tra l'altro stiamo anche già iniziando a parlare di Natale. Quindi sì, cioè... per forza, da domani è già Natale. Come dice la tradizione, quando c'è il Black Friday iniziano gli acquisti di Natale. Quindi è giusto pure parlare di Natale. Prima del Black Friday, che è nato negli anni 80. Come si infatti, faceva? Infatti. Era Natale, veramente. Eh beh. E ognuno poi faceva quello che poteva. Tra l'altro, non so se avete visto, ma cos'è che era? Forse già un mese fa c'erano fuori gli alberi di Natale. Sì, sì. Dimmi te. Sì, beh, bisogna anticipare sempre i tempi. Ma sì, sai... beh, infatti c'era uno che praticamente dopo il 15 di agosto aveva iniziato a accendere le luminarie, non lo so. Cioè, veramente, stiamo diventando... Il fatto è che più ci fai caso, perché adesso anche il tempo, purtroppo è cambiato. È molto più estate. Sì, una volta già meglio, ottobre, meno male, ti dava già un'idea di inverno. Ecco, adesso, ancora adesso... le temperature sono un po'... sono aumentate. Allora è difficile pensare... Io mi ricordo Natale con la neve. Che bello. Adesso sì, invece la neve manco col binocolo. Devo trovare una base nostalgica per queste cose. Mi ricordo... Ma in Italia funziona tutto nostalgia, dunque. Sì. Vabbè. Andiamo avanti con comunque, un po' di musica. Aspetta, sulle cime della montagna c'era già la neve. Non è quello, sì, quello le nevi eterne. No, è vero, è vero. È verso il Rosa, verso Monte Rosa, ha ricominciato da poco a riempirsi di neve. È vero, vero. E da poco che sono riempite. Già stasera comunque è prevista neve, sì. Dunque per chi va in montagna. Sì, ma infatti qua. No, ma guarda, tanto alle 9 abbiamo il servizio meteo, perché lei arriva direttamente dall'Epson sì. Meteo, dal computer Epson. Sì. Quindi avremo subito le informazioni, perché mi sa che questa settimana è prevista neve. Arriva il freddo, sì. Cioè arriva, speriamo, perché io... Ma io oggi ho controllato, no, dovrebbe fare brutto domani. Sì. Quindi domani, no, domani a casa. Pioggia. Ho sentito parlare di neve, ma però io prossima. Poi ho visto domenica, lunedì è bello. Sì. E poi mercoledì, da martedì e mercoledì ancora pioggia. Vabbè, poi però dovrebbe essere bello. Aspettiamo le informazioni, le quelle ufficiali. Ci vogliono quelle ufficiali dall'Epson Meteo con Giuliacci che arriva direttamente a portarcele. Buonasera. Adesso andiamo proprio nel super trash. Oddio. Ti potresti... Guarda, non se conosco te, se... proprio nel titolo niente. No, allora ti ripeto, è impossibile che non hai mai sentito sto brano. Guarda, ti potresti anche vergognare. Se vuoi andare, vai, non è un problema. No, beh, di te mi posso di vergogna di una serata, vabbè. Solo una. Anche due, quella dopo anche. Il brano è di Sophie Tucker. Ah. Non lo conosci? No. Non so da che Best da Friend? Neanche quello. Fit Nervo, nemmeno nulla, non ti dice niente di niente. Nervo sì. No, perché non si vedeva non ti la dice... No. Vabbè. Non ti dice nulla niente. Andiamo ad ascoltarlo. Sì, mi dirai dopo, dai. We made a language for us two. We don't need to describe. Every time you call on me, I drop what I do. You are my best friend and we've got some shit to shoot. Yeah. Yo, you wanna meet me in the lounge? Yeah. Yo, you wanna meet me in the club? Yeah. Yo, you wanna meet me downtown? Okay. Yo, you wanna meet me in the east? Yeah. Yo, you wanna meet me in the west? Yeah. Yo, you wanna meet me on the block? Yeah. Yo, you wanna meet me at the spot? Okay. Think that I'll keep loving you way past 65. We made a language for us two. We don't need to describe. Every time you call on me, I drop what I do. You are my best friend and we've got some shit to shoot. That's the way it is. That's the way it goes. It's just us two. It's deja vu. It's what we know. That's the way we like it. Don't complicate. No need to fight it. Just invite it. Yeah. Nothing but the way you love. Ain't nobody like me like you done. I keep those eyes to the side, go in my life. I listen. l'avevi già sentita questa, dai. Sì, non l'hai mai sentita? Far contento. Ma io non ci, che ma io non ci voglio credere. Ma non ci voglio credere. Non ci se voglio ti devo far contento, no. Se proprio devo. Cioè, io mi fermo solo alla foto, magari se ci sono le nervo, ecco. Sì, vabbè, ma voi immagini maschi tutto, veramente siete scandalosi. No, non siamo scandalosi. Siamo sempre dalla, siamo dalla, da, diciamo, dal lato. Vedi, la voce della comunque realtà. Comunque mi dicono che il mio, la mia, diciamo, felpa è viola. A voi sì, sembra viola. Ma si scende un po' con la luce, sì. Ok, ho deciso che butterò via questa felpa. Perché? Non mi piace. Pensavo fosse azzurrina. O sono daltonico io. No, con la luce. Dipende dalla luce. Mia. E infatti sembra quel giochino, se sembra... no cambia la lampada, metti ma la lampada bianca. Ma quanto è difficile sto ragazzo, peggio di me. Sembra no, quel giochino. Poi sono io quella che fumo, eh. Sembra quel giochino lì, sai quello lì che colore, indovina scherzo, il colore, sì, del. Anzi, sì, stasera sono proprio rinchiusa in galera. Vabbè, dai, dai. Manco l'ora, le 5 non minuti è solo d'aria per la sigaretta. E anche a Gallarate, in quelli di via, non mi ricordo più. No, no, è a Samarate. Ah, siete in trasferta stasera. Sì, siete in trasferta, sì, sì, sì. Stasera, vabbè, sì, neanche sì, 5 minuti per la sigaretta, figurati. Non ma ti no, fumare. Ma non fumare. Guarda, mancano due brani, guarda, andiamo proprio anche veloce e poi dopo facciamo anche i saluti. Il prossimo brano te lo lascio annunciare a te, visto che... Vai, vai. Che non sciogli lingua, allora. Allora. Lo dico in italiano, dai. Vai. LCD Sound System. Eh? La canzone è Tonight. Everybody sings the same song. It goes tonight, tonight, tonight, tonight, tonight. I never realized tonight. These artists thought so much about dying. But truth be told, we all have the same end. Could make you cry, cry, cry, cry, cry. But I'm telling you, this is the best news you're getting all week. Oh sure, it's ruling the airwaves. But what remains of the airwaves? And we're frankly thankful for the market psychology you're hipping us to. But all the hits are saying the same thing. There's only tonight, tonight, tonight, tonight, tonight. Man, life is finite. But shit, it feels like forever. It feels like forever. Rambling. Tu dicevi che era anni 80, però a me piace. No, no, sarà ma il sound anni 80. Una, no, no, quando io parlo di anni 80 non parlo male, anzi. Beh, dipende, dai. Ma no, tanta no. roba anni 80 è veramente super ma trash. Ma tu hai presente anche il primo Calvin Harris. Ah, sì, bravo, bravo, bravo. Era molto anni 80. No, gli anni 80, beh, non sono dico della generazione anni 80, più quasi 90, no. Sì, sono sì, lì sì. a cavallo io, diciamo. A cavallo. Tra gli 80 cavallo, e 90. 90, sì. Sì, sì, 14 anni fino 80. Vabbè. Sei vecchio. Sì, beh, alla fine basta guardarmi. Però bravo. Grazie. Intanto salutiamo anche il mio collega Alessio che mi scrive, mi fa segnalato infatti del Pali. Sì, sì. Uè, ciao Pali. Che è tornato adesso da Domodossola, penso un po'. Col treno? No, a Domodossola, a non da Domodossola. No, no, in machine, in machine. Porraccio. Va bene, mia, va bene. È giornata noi... lunga anche per te. Sì, domani sarà per me. Quindi andiamo ad ascoltare l'ultimo brano di oggi. Mi stavo perdendo perché sono gli Imagine Dragons. E qua vabbè. E il titolo Whatever It Takes. It Takes. Però la traduzione ha lasciato un po'. La mia era prendilo ovunque. Però vabbè, non è proprio questo. E invece cos'è che era? Non mi ricordo nemmeno più adesso. Whatever. Ah, tutto il necessario, tutto il necessario. Necessario. Effettivamente, se guardi il video, ha un senso, Sì, sì, sì. Intanto sì. è arrivato il meteo qua. Ah, ecco, ecco, dai, dici il meteo, poi dopo lanciamo allora. Il brano. Per domani. Aspetta, che arriva la letterina. 5 novembre, pioggia debole, pioggia moderata al mattino, temperatura minima di 8 gradi e massima di 10 gradi, vento debole. Quindi domani siamo in casa, copertina, divano e no, film. Ma domani è sabato, è una giornata come il Black Friday. È il Black Saturday. Black Saturday, anche grey direi. E dopo vabbè, questa vabbè. È milionata di cavolate, andiamo ad ascoltarci l'ultimo brano di oggi, dai, con Imagine Dragons, Whatever It Takes. Prendetelo ovunque. Fast to prepare for these, tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures, negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. Whip, whip, run me like a racehorse, pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip, word upon your lip, lip. Let it that you rip, rip. Break me down and build me up, whatever it takes. I love the adrenaline in my veins. I'll do whatever it takes. Cause I love how it feels when I break the chains. I'll do whatever it takes. Oh, now take me to the top. I'm ready for whatever it takes. Oh, cause I love the adrenaline in my veins. I'll do what it takes. Got a fear of being typical, looking at my body feeling miserable, always hanging on to the visual, I wanna be invisible, looking at my ears like a martyrdom, everybody wants to be a part of them, never had enough from the prodigal son, I was born to run, I was born for this, whip, whip, run me like a racehorse, pull me like a ripcord, break me down and build me up, I wanna be the slip, slip, word upon your lip, lip, letter that you rip, rip, break me down and build me up, whatever it takes. Takes. I'm hypocritical, egotistical, don't wanna be the parenthetical, hypothetical, working hard on something that I'm proud of, out of the box, an epoxy to the world, the vision we've lost, I'm an apostrophe, I'm just a symbol to remind you that there's more to see, I'm just a product of the system, a catastrophe, and yet a masterpiece, and yet I'm half diseased, and when I am deceased, at least I go down to the grave and die happily, and leave my body and my soul to be a part of thee. I do what it takes. Allora hanno fatto questo pezzo finale proprio bello carico. Grazie. Carico. Adesso aspetta che lanciamo la sigla e poi dopo saluti. Faccio ancora. Del lupo. E siamo arrivati al termine anche oggi, dai. Direi che fatta. Per questa sera abbiamo viaggiato abbastanza. Sì, sì, sì, sì. Neanche troppe cavolate stasera, nel caso mancava il... Ma poi eravamo concentrati, almeno io, ma anche su tutt'altro, quindi... Ma poi lui era convinto che, essendoci io che sono esperto in cavolate, invece stasera sono stato... Sì, diciamo, sì, dello speaker quasi serio, quasi serio, quasi serio, quasi serio, serio. Oggi sì, sì, oggi sì. Ma perché è un buon motivo. No, scherzi a parte. Ma non è vero, no. È bravissima la Debora, dai. Sì, sì, vabbè. E niente, boh. Quindi vabbè, dai, ti sei, salutiamo. Ti sei, tra i due non so chi si salva. Ci forse vediamo alla prossima. Ci vediamo alla prossima. Lei. Quando volete venire, venite pure. Tanto sì, siamo qua. Infatti, magari riusciamo a fare anche una mezz'ora in più. Sì, certo, sì, sì, sicuramente. Anche a fare stasera una, siamo una cena dopo. Quindi. Cena. Proprio cena, cena, non solo la torta. No, sempre un'altra voi. Puntata di Family Pub. Sì, sì, bravo. Cambiamo il nome del programma. Poi alle 11:30. Da qua sta malate. Dal prossimo anno si chiamerà Wolf Family. Family Pub. Wolf Family Trips. I viaggi del lupo. No, i viaggi del lupo. E praticamente Cappuccetto Rosso, la nonna, tutti insieme. Bravo, bravo, bravo, così, così. Vabbè, niente, salutiamo Tony, ciao, salutiamo ragazzi. Debora. Salutiamo la Cri. Ciao. Mi saluto io da solo. Alla prossima. La voce è quella che è stasera, perché purtroppo mi sta abbandonando pure lei. Mi saluto da solo e niente. Ciao, Domingo. Grazie, grazie. Sì, perché devi sapere che c'è il mio socio che si chiama Fabio. Sì. E allora noi siamo Fabio e Domingo. È proprio un Black Friday. E ricordiamo, salutiamo Ego che... E infatti no, volevo okay. Ricordare le serate con Ego, che sarà all'Opera Rock. Oppure a casa sua, se volete fare altre serate con lui. Sì, infatti, dipende che serate volete fare, nel senso. C'è anche due gatti, per chi ama i gatti. Sì, lo sappiamo. Vabbè. Voi quanti ne avete? Due. E invece salutiamo anche Giorgio. Ciao Giorgio! E Annalisa. Annalisa, benvenuta Annalisa. Sì, al Family Pub. Al Family Pub. Quello vero però, non di Narza. Mangiate la pizza che è buona. La pizza è buona, la birra è buona. Molto buona la birra. Insomma, che dire. Poi qualcuno me la sbaglia. Vabbè, vabbè, vabbè. Niente, ci sentiamo settimana prossima. Sicuramente non ci sarà ancora Fabio, ma vedremo un po' chi ci sarà. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.